6. In piedi, nella divisa militare, Guy Johnson assisteva alla scena, defilato rispetto all'alone di interesse e curiosità che circondava i Mohawk. Al suo fianco, sotto una parrucca bianca, Daniel Klaus contemplava gli invitati di Lord Warwick. Nonostante la fierezza della postura, Guy accusava il peso del viaggio e la fatica degli ultimi mesi. Lo stupore, di fronte all'aristocrazia londinese, lasciava il passo a considerazioni più gravi circa la loro presenza nella capitale. Londra era un calderone ribollente di umori e avvenimenti. Il rischio di rimanere inghiottiti era serio. Le porte da aprire erano due: Lord Germain, nuovo ministro delle colonie, e Re Giorgio. Bisognava aprirle in fretta, ottenere le nomine. Al momento l'attenzione volgeva tutta verso il principe Thayendanegea e i suoi valorosi guerrieri Mohawk. Dalle premure di Lord Warwick e dalla curiosità morbosa dei convitati si capiva che la cosa era destinata a durare. Questo poteva andare bene. Guy si fidava di Joseph Brent, sapeva quanto avesse a cuore l'eredità di Sir William e l'unione di sangue con la famiglia Johnson. Sapeva che avrebbe fatto la sua parte per onorare la memoria e i precetti del vecchio. Anche al monaco la Croix doveva essere riconoscente, difficile da capire, ma affidabile come pochi. I Mohawk avrebbero fatto l'interesse del loro popolo e della famiglia Johnson. Eppure il rischio di rimanere oscurati era concreto. Forse bisognava insistere sui meriti militari ottenuti contro i ribelli, sulla cattura di quel pagliaccio esaltato di Allen. Eppure, al fondo qualcosa era cambiato. Una gobba di stanchezza, la patina scura del dolore. Non era facile scrollarsi di dosso Bandoka. Mary e il figlio maschio. La responsabilità era sua, l'aveva voluta con sé. Da quella notte faticava a guardare in volto le figlie e aveva iniziato a temere il futuro. Forse era quello il senso dell'invecchiare. La paura come una zavorra sempre più pesante, o forse era solo la durezza di un viaggio iniziato molti mesi prima. Eppure, l'anno 1775 si chiudeva nella residenza sul Tamigi di un aristocratico nelle grazie di Re Giorgio, tra baldracche di illustri casati e parassiti d'altro bordo. Lontano dalle terre e dai possedimenti, con la guerra alle porte. Per fortuna aveva le figlie con sé, al sicuro. Difendere l'onore e gli averi dei Johnson, ottenere gli incontri giusti, trattare buoni affari, allontanare l'ombra cupa. Guy destò i propri sensi e si accorse di avere in mano un bicchiere, ma non ricordava cosa contenesse. Vide Peter seguire al violino la musica dell'orchestra. Suonavano su una piccola pedana, sotto un enorme specchio dentro una cornice di legno dorato. Il ragazzo era a suo agio. Aveva studiato e ricevuto una buona educazione, parlava bene e aveva già fama di combattere. Poteva fare breccia nella considerazione della corona. Tornò a guardare in direzione di Joseph Brent e del conte di Warwick, pochi passi più avanti. L'indiano era impassibile, non mutava espressione né apriva bocca, calato nella parte in maniera impeccabile. A giudicare dalle moine del conte, poteva chiedere qualsiasi cosa. Meglio non farsi rodere dalla fretta, muoversi nei tempi giusti, saper aspettare. Si scosse di nuovo e si girò verso Daniel Klaus. «Pare che il nostro principe eserciti un'attrazione irresistibile sull'aristocrazia britannica», indicò con un cenno del capo in direzione del capannello animato dalla loquacità del conte. Il tedesco spostò il peso sull'altra gamba e il commento che proferì fu solo un rantolo. Guy Johnson guardò di nuovo il bicchiere che aveva tra le mani. Il maestro cerimoniere interruppe musica e danze per annunciare che Lady Somersault, la strana architettura semovente di broccati e gioielli, era la vincitrice della serata grazie alla considerevole opulenza del carico che trasportava per un controvalore di migliaia di sterline. Alla notizia seguì un applauso, interrotto da nuove portate di cacciagione, dirette al lunghissimo tavolo del banchetto. Il trambusto fu immediato e irrefrenabile. I capannelli si scomposero, attraversati da un sussulto come di esercito in rotta. Non di fuga si trattava, ma di assalto, tanto che alcuni camerieri si sottrassero a stento all'arrembaggio. Grovigli di mani smembrarono il cibo. Rumori di masticazione riempirono la sala. «Toglie appetito, vero?» Una voce disgustata, passo incerto, gamba destra rigida, spalle storte, come il sorriso. L'uomo accennò a un inchino. «Sir Theodore Lead, onorato!» Guy Johnson e Daniel Klaus ricambiarono il saluto. Lead ammiccò in direzione di Joseph Brent, che contemplava serafico il banchetto. «Con tutto il rispetto, signori, A meno che da quando ho lasciato l'America le sei nazioni non siano diventate una monarchia, il vostro indiano non è principe più di quanto io sia re di Svezia. Aveva il tono brusco di un soldato e ne aveva anche l'aria. Guy e Daniel scambiarono un'occhiata eloquente. In effetti, Joseph Brant Tagliandanega è un capo guerriero, non un principe, ammise Guy. Lo immaginavo, soggiunse lo sciancato. Ero di stanza a Fort William Henry durante l'ultima guerra. Sfiorò la gamba, poi la spalla con la punta delle dita. Mortaio francese, chirurgo scozzese. Abbinata infelice. Si concesse un ghigno amaro. Guy sentì l'ansia salire in gola. Deglutì un paio di volte, cercando di non pensare alla sua tenuta, alla valle, soprattutto all'abisso d'acqua che lo separava da casa. Fu Klaus a intervenire, forse accorgendosi della sua difficoltà. «Da allora non siete più tornato in America?» «Purtroppo no, sono in congedo definitivo. Non di meno, mi tengo informato su quanto succede. So che avete avuto problemi col generale Carlton circa gli indiani». Klaus lo squadrò, con malcelata diffidenza. «Per caso appartenete anche voi al partito contrario al loro impiego in questa guerra?» Lead sorrise. La domanda era un modo esplicito di prendergli le misure. Osservò l'orda famelica che si allontanava dal tavolo, con l'aria stanca e soddisfatta di chi ha faticato per guadagnare il pane. Il chiacchiericcio riprendeva coppie e gruppetti, mentre l'orchestra cambiava gli spartiti. «A suo tempo conobbi il commissario Johnson», disse infine Lead. «Mi è dispiaciuto apprendere della sua morte. È raro trovare nella stessa persona un condottiero capace e un abile diplomatico». «Non avete risposto alla mia domanda», replicò Klaus, arrotando le R. Quando si innervosiva, l'accento tedesco prendeva il sopravvento. «Altro che, signore! Un uomo come Sir William sapeva utilizzare gli indiani contro i nemici della corona e allo stesso tempo tenerli sotto controllo. Datemi un altro William Johnson e sarò il primo a sostenere l'impiego degli irregolari indiani». «È un modo elegante per dire che siete contrario», intervenne Guy. «Niente affatto», ribatte l'altro. «È un modo di dirvi che comprendo la delicatezza della vostra missione. Credo di essere l'unico in questa sala». «Tuttavia credete gli indiani troppo indisciplinati per combattere dalla nostra parte?» «La disciplina, colonnello, serve a illudersi che la guerra sia una partita a scacchi tra gentiluomini». Lida adesso parlava come se stesse commentando il sapore del vino, ma gli occhi erano offuscati da un malessere che sembrava marcire in fondo all'animo. «Un'idea con cui noi ufficiali amiamo baloccarci». Una smorfia gli storse di nuovo la bocca. «Ma chi, come noi, conosce l'America, sa che questa guerra sarà di un genere particolare, senza regole e con scenari imprevedibili». Fissò i due interlocutori con fermezza. Un'enorme forza mentale si dibatteva dentro un involucro fallato. «Guerra civile, la più sanguinosa. Gli inglesi la conoscono. Già una volta un re ci ha rimesso la testa. È questo che spaventa i pavidi come Carlton». Un lieve gesto bastò a esprimere la scarsa considerazione per il governatore del Canada. «Sanno che gli indiani sono i combattenti ideali per questo genere di conflitto e ne hanno paura. Paura di quello che si può scatenare». Guy Johnson avvertì un fastidioso sudore sotto il colletto. Ebbe la sensazione che qualcuno avesse rubato i rumori, che i suoni non si diffondessero più. Le bocche si aprivano mute. L'archetto di Peter accarezzava le corde senza cavarne nota. Tacchi e suole battevano un pavimento d'ovatta. Ogni corpo, ogni movimento era assurdo e inumano. Gli sembrava di essere circondato da lastre di vetro. Le due yard quadrate che comprendevano lui, Klaus e Lead erano il frammento di un mondo alieno, sovrapposto a quello della festa, come una macchia d'olio sul pelo d'acqua che galleggia senza farsi assorbire. «Le vostre parole sono affatto inconsuete, Sir Theodore». Il reduce mosse il busto irrigidito e asimmetrico, come una marionetta. «Pensate che non siano adatte a un leale soldato di Sua Maestà?» Lead abbracciò la sala con un solo gesto della mano. «E se vi dicessi che davanti allo spettacolo di questa nobiltà non posso non provare un briciolo di simpatia perché stanco di finanziarne i lussi con le proprie tasse, pensereste che sono un traditore?» Guy scambiò un'occhiata con Klaus, nervoso. Dove voleva arrivare? Forse il mortaio l'aveva colpito anche alla testa e sotto la parrucca il cranio era deformato, la mente offesa. «Ebbene, sbagliereste, e di molto», concluse Lead. «Io sarei disposto a tutto per salvaguardare l'unità dell'impero», tornò a fissare Guy Johnson. «E voi?» «Non capisco cosa intendiate». Il reduce fece un cenno in direzione di Brent, di nuovo in balia del padrone di casa e dei suoi ospiti. Aizzare i cani da guerra contro altri inglesi, ancorché nemici del re, sentenziò Lead, ci vorrà fegato per farlo. Una grande fede in Dio e in Giorgio III, sbatté i tacchi. Signori, è stato un onore. Di nuovo un mezzo inchino, un sorriso e si allontanò. I due gentiluomini restarono a guardarlo trascinare la gamba, come un vecchio animale ferito. Il disagio che condividevano impediva a entrambi di aprire bocca. Allora è questo che fanno gli indiani. Osservano in disparte i nostri usi bizzarri. Philippe Lacroix si voltò di scatto. La donna era vestita d'azzurro, un filo di perle al collo. La pelle candida come un lenzuolo era percorsa dai felidi che si perdevano sotto l'abito. Era di corporatura solida, ben piantata. Sembrava apparsa dal nulla, viso adulto, tratti marcati appena ingentiliti dal trucco. I capelli dorati riflettevano la luce della sala. Philippe rimase muto a osservarla. Poi parve ricordare qualcosa. «Mi dispiace, signora. Temo di non capire». La donna sorrise. «Intendo dire che assomigliate a uno studioso di storia naturale che osserva illustrazioni di animali esotici». Philippe non sapeva cosa pensare. Le parole della donna erano celia o cos'altro? La donna allungò una mano. «Lady Florence Mowbray». «Philippe Lacroix». La donna ristette perplessa, attendendo il baciamano, poi aprì il ventaglio che portava appeso al collo e sorrise. «Non mi aspettavo certo Hercules Kerkabon». «E voi non siete la signorina di Saint-Yves?» «Per fortuna! Avete letto L'ingenuo? E come lo giudicate?» Fu il testo a offrire a Philippe la risposta. «Una buona favola. Mi piacciono le favole dei filosofi, rido a quelle dei bambini e odio quelle degli impostori». Gli occhi di Lady Mowbray tradirono una sincera sorpresa. Nessun altro in questa sala saprebbe citarlo così a memoria, ammesso che qualcuno lo abbia letto. Nelle foreste americane circolano contes philosophiques? Nelle foreste americane circolano molte cose europee, rispose Philippe. Lady Mowbray schermò il volto con la ruota del ventaglio. Lo fece ondeggiare sul naso per impedire al sudore di sciogliere il trucco. Noi altri non sappiamo davvero nulla del vostro paese. Leggiamo Voltaire che con foga sconsiglia l'America. A lui piace l'Inghilterra, commentò Philippe. Forse, in realtà credo gli piaccia contrariare i suoi connazionali. Quell'uomo è un provocatore, il più acuto d'Europa. Fece una pausa, come dovesse decidere se azzardare ancora o fermarsi. Alla fine aggiunse, al suo confronto Rousseau non è che un grigio figuro, non trovate? Del resto non è francese ma svizzero, tutt'altra razza. Oh, scusate, non vi ho chiesto se conoscete... Gli svizzeri? La interruppe Philippe. No, ma ho letto L'Emilio. Stupefacente! Disse la donna, avvicinandosi di un mezzo passo. «E...» soppesò la domanda. «Da che parte state?» Philippe la guardò perplesso. «Tra i due campioni quale scegliete? Per chi parteggiate?» precisò lei. «Oggi non si è nessuno se non si ha un'opinione in proposito». «Quale proposito?» «Ebbene, voi, in un certo senso. Non mi lascerò sfuggire l'occasione di avere chiarimenti da un diretto interessato». «Temo di non capire». Lei gli sfiorò il braccio con la punta delle dita. «Il selvaggio, l'ingenuo, l'uomo naturale. Pensate di essere il modello dell'uomo originario, virtuoso e incorrotto, o piuttosto un ritardatario che deve approdare alla civiltà?» Philippe soppesò la domanda e decise di dire quello che pensava davvero. «Appartengo al popolo della Selce, custode della porta orientale della lunga casa. Sono figlio del clan del lupo. Prego Dio, alla maniera dei papisti francesi, e ho combattuto per il re d'Inghilterra. I filosofi non hanno mai messo piede in America, né hanno mai incontrato un indiano». La donna elargì un sorriso di meraviglia. «Mon Dieu! Ecco Alessandro che taglia il nodo gordiano. Avete ragione. Pronunciarsi su tutto, in special modo su ciò che si ignora, è una delle malattie del nostro tempo. Tipica dei francesi, aggiungerei». Compì un mezzo giro intorno a lui, lanciando occhiate alla sala e inclinando appena la testa in segno di saluto verso qualcuno degli ospiti. La donna proseguì. «La vostra storia deve essere assai più interessante di qualunque operetta morale. Discendete certo da un grande re». «Non ho conosciuto i miei genitori», rispose Philippe. «I missionari del Canada mi hanno raccolto quando avevo 2 anni». «Orfano, quindi», commentò Lady Mowbray con aria più greve. «Scapolo anche?» «Ho avuto moglie e una figlia. Sono morte molti anni fa». La donna si schiaffeggiò una mano. «Pago pegno, per la mia indiscrezione». Attorno alla sala era un brulicare di corpi e di voci. «Voi siete sposata?» «Sì, ho barattato la mia virtù per un bene maggiore». Le parole uscirono attraverso un sorriso forzato. «Una contea, per la precisione. Ma ho avuto la buona idea di pretendere un'istruzione, così da non vivere inconsapevole, come un animale». Philippe non seppe cosa dire. Lei parve divertita dall'effetto delle proprie parole. «Lord Mowbray esige massima discrezione, e che non lo si contraddica in pubblico. Una donna acculturata è più di quanto queste persone riescano a sopportare. Come vede Monsieur Lacroix, noi inglesi siamo davvero civili. Mettiamo a contratto qualsiasi cosa. Ecco svelato perché molti filosofi ci prendono a modello». Philippe colse la figura di Joseph scortato dal conte di Warwick fino a un capannello di dame sovraeccitate. «Ma adesso venite», propose Lady Mowbray senza perdere tempo. «Soccorriamo il principe. Lo spettacolo sta per cominciare».